Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A pochi chilometri da Parigi, dunque, l'assedio delle forze di polizia francesi ai presunti terroristi. Avrebbero degli ostaggi, ma non si sa quanti, mentre spunta un collegamento con l'uomo che ha ucciso una vigilessa ieri nella capitale francese. Oltre 50 i foreign fighters passati per l'Italia, ma solo 4 italiani, dice Alfano, che aggiunge: valutiamo l'istituzione di una procura antiterrorismo. Secondo i servizi inglesi, negli ultimi 14 mesi si sono registrati 20 piani di attacco contro l'Occidente. E sarebbero oltre 2000 le vittime degli estremisti di Boko Haram in Nigeria, mentre i soldati si davano alla fuga, rasi al suolo interi villaggi. Tornano ad affacciarsi voci di una morte di Fidel Castro. La notizia è stata diffusa da organi di informazione del dissenso cubano ed è stata convocata a L'Avano una conferenza stampa internazionale. Sale il potere d'acquisto delle famiglie italiane, che però non spendono. Cresce infatti la propensione al risparmio. Sale anche la pressione fiscale nel terzo trimestre dell'anno. Una buona giornata da Simone Spezia di nuovo e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i contatti, il 349-238-6666 per intervenire durante la trasmissione, effettogiorno@radio24.it per scriverci, e poi la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura naturalmente ritorniamo a Parigi, dove le ultime notizie danno negoziati in corso con i due presunti terroristi asserragliati nella sede di un'azienda, ma anche su questo le informazioni sono estremamente frammentarie e contraddittorie. Proprio per fare un punto e anche per ricostruire questa difficile mattinata, ci colleghiamo ancora una volta col nostro inviato a Parigi, Sergio Nava. Sergio, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Allora Simone, subito un aggiornamento, perché ha parlato proprio 3 minuti fa il portavoce del ministro, del Ministero dell'Interno, ha parlato proprio a Dammartin-en-Goële, che è il posto, il piccolo comune vicino all'aeroporto di Charles de Gaulle, dove 5 minuti dall'aeroporto, dove appunto si sono asserragliati i due fratelli Kouachi. È stato abbastanza varo di informazioni, ma su un punto è stato chiaro: stamattina non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti, non c'è stato ancora alcun assalto alla piccola tipografia dove i due fratelli si sono appunto trincerati insieme a uno o più ostaggi. Ha anche lasciato intendere che la priorità è quella di avviare negoziati con i due fratelli. Questo prevede anche tra l'altro il codice di intervento del gruppo della speciale della Gendarmeria Nazionale. L'obiettivo è prenderli vivi e chiaramente preservare anche la vita degli ostaggi, per cui questa al momento la situazione è la situazione che è calma al momento. Sì, perché immagino che in questo momento siano in corso proprio delle trattative per tentare di liberare gli ostaggi, o potrebbe anche prepararsi un blitz eventualmente. Questa è l'altra opzione, anche perché ricordiamolo, stiamo parlando di due persone, due fanatici che hanno ucciso 2 giorni fa ben 12 persone. Da 2 giorni sono in fuga, probabilmente sono anche non hanno dormito per ben 2 giorni, quindi sono anche chiaramente in condizioni psichiche molto difficili, e quindi è molto complicato trattare con loro. Quello che la persona che sta trattando con loro è il generale d'armata Denis Favier, direttore generale della Gendarmeria Nazionale, che già è stato protagonista di una trattativa nel 94, quindi 21 anni fa, quando ci fu un assalto contro un Airbus a Marignan nel dicembre del 94. Quindi questa al momento è la situazione, di più non è dato sapere, anche perché la polizia e le autorità sono estremamente avare di dettagli. Senti Sergio, già nei nostri titoli citavamo, e qualcosa accennavi già tu anche nei collegamenti precedenti, al collegamento possibile tra questi due attentatori e l'uomo che ha sparato ieri uccidendo una vigilessa sempre nella capitale francese. È il lato forse ancora più inquietante, perché ricordiamo, ieri mattina una vigilessa è stata uccisa a Montrouge, nel sud di Parigi, mentre stava svolgendo un normale controllo. Un uomo pesantemente armato ha fatto fuoco. È stato identificato, questo è stato reso noto stamattina, questo uomo conosceva, su questo c'è certezza, i due fratelli Kouachi. Li conosceva e le autorità sono abbastanza caute nel dire se ci sia un collegamento diretto tra le due azioni, però è molto probabile che i tre appartenessero alla stessa cellula jihadista. Se fosse vero, avremmo un terzo uomo attualmente in libertà, attualmente ricercato nei pressi di Parigi o a Parigi, anche questo armato, anche questo disposto a tutto, quindi chiaramente è un dato abbastanza, se vogliamo, inquietante su quello che sta avvenendo a livello di terrorismo proprio nella capitale francese. Sergio, io intanto ti ringrazio, torneremo a collegarci con te nel corso di Effetto Giorno, naturalmente per tutti gli aggiornamenti su questo blitz in corso, su questo vero e proprio assedio ai due sospetti di aver condotto, sospettati di aver condotto l'attacco che ha condotto alla morte di 12 persone al settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Intanto questa mattina a Roma il ministro dell'Interno Angelino Alfano è intervenuto per riferire e per prospettare le nuove misure. Sentiamo. Uno dei killer di Parigi era noto alle nostre forze dell'ordine, ma non era mai stato sul territorio nazionale. A rivelarlo è il ministro dell'Interno Alfano, che alla Camera, in un'aula semivuota, stamattina ha fatto il punto sulla minaccia del terrorismo islamico nel nostro paese, a partire dai 53 foreign fighters censiti in Italia. Quattro di esse hanno nazionalità italiana, come il genovese del Nevo, morto in combattimento ad Aleppo, e un giovane marocchino naturalizzato che si trova attualmente in un altro paese europeo. La quasi totalità di queste persone è ancora attiva nei territori di guerra, mentre la restante parte, decisamente minoritaria, è deceduta in combattimento o è detenuta in altri paesi. Nonostante le misure antiterrorismo annunciate da Alfano, le opposizioni contestano il governo per le sue politiche su immigrazione e sicurezza. Duro l'intervento in aula del leghista Grimoldi. Questo governo è collaborazionista dei terroristi, perché quello che voi state facendo nei fatti per ora la causa dei terroristi. Lei, signor ministro, dice di ritirare i passaporti, ma se andate a prenderli con le navi da guerra che non hanno neanche i documenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al tema dell'ipotesi di istituzione di una procura antiterrorismo è dedicata oggi l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Dopo la strage di Parigi contro il settimanale satirico Charlie Hebdo, ci si domanda quali possono essere le soluzioni più idonee per contrastare le cellule terroristiche jihadiste. È innegabile che in Europa, specie negli ultimi anni, ci sia stato un leggero allentamento investigativo. Del resto, dopo le stragi di New York, Madrid e Londra, fatti analoghi non si sono più riprodotti, ma le cellule restano attive, alcune in sonno, come si dice in gergo, e la rete terroristica jihadista si è perfino ingrandita. Comunque, segnali ce ne sono stati. C'è l'aumento esponenziale di europei che si sono arruolati al fianco delle milizie dell'ISIS in Siria e in Iraq. Ci sono numerosi attentati sventati, progetti eversivi neutralizzati dalle varie intelligence europee e americane. E allora la procura antiterrorismo può diventare una mossa decisiva. Lo ricordava ieri, qui, a Effetto Giorno, l'ex sostituto procuratore della Repubblica di Milano Stefano D'Ambroso, oggi parlamentare di Scelta Civica. Lui ha presentato una proposta di legge nel lontano 20 settembre 2013 che giace in qualche archivio della Camera. Si propone dunque l'istituzione di un raccordo giudiziario nei procedimenti che hanno ad oggetto crimini di terrorismo attraverso l'istituzione di uffici della procura e di sezioni giudicanti specializzate. D'Ambroso scrive nel suo documento che non si tratta di tribunali speciali in deroga al divieto previsto dal nostro ordinamento, ma di giudici ordinari che, avendo acquisito competenze in settori specifici, possono utilizzarle sia nella fase delle indagini che in quella giudicante, nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie vigenti. In sostanza si tratta di mettere insieme un vero e proprio pool antiterrorismo, sul modello dei pool antimafia o anticorruzione. È indubbio, infatti, che i terroristi jihadisti possono approfittare di uno sfilacciamento dell'informazione tra procure e acquisire nel tempo un certo grado di impunità. Basterebbe ora riprendere la proposta, magari modificandola secondo la nostra legge e secondo la nostra Costituzione, e poi approvarla in tempi rapidi. Una piccola nota per l'ascoltatore che ci scrive via sms al 349-238-6666 di non dire che si tratta dei presunti terroristi, le persone che sono asserragliate all'interno di un'azienda a pochi chilometri da Parigi. Ci dice: basta con presunti, siete pericolosi, pavidi e ipocriti. Sappia l'ascoltatore che praticamente tutti i media internazionali usano sospetto finché una persona non è arrestata o condannata. Quindi dico, non vi lamentate della stampa italiana, insomma, se poi vi arrabbiate quando utilizziamo lo stesso garantismo che viene utilizzato dalla stampa internazionale. E per rimanere sui temi invece della libertà di espressione, ha ricevuto oggi le prime 50 delle 1000 frustate a lui destinate Raif Badawi, che è un blogger saudita, fondatore di un sito liberale, arrestato per l'apertura di un forum di pubblico dibattito e accusato anche di aver offeso l'Islam. Badawi verrà sottoposto a questo pubblico supplizio ogni venerdì al termine della preghiera per le prossime 20 settimane. Di questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione con un rappresentante di Amnesty International. Si è parlato e si è anche collegato in queste ore, anche in alcuni commenti, il tema dell'estremismo islamico a quello che sta anche succedendo in Nigeria, dove Boko Haram ha portato avanti un'offensiva violentissima e ci sarebbero circa 2000 vittime. L'offensiva contro la città di Baka era stata lanciata lo scorso fine settimana e ora i miliziani di Boko Haram controllano il 70% della regione. Case in fiamme, devastazione, Baka è stata distrutta, rasi al suolo anche altri 16 villaggi vicini. Se i numeri venissero confermati, si tratterebbe della strage più sanguinosa e clamorosa del gruppo. Le vittime potrebbero essere 2000. I militari nigeriani avrebbero rifiutato infatti lo scontro, si sarebbero dati alla fuga, così come le migliaia di persone sopravvissute alla strage. Alcune hanno cercato di attraversare il limitrofo lago Chad. Nell'ultimo anno il conflitto ha segnato una violenta escalation. Da quando i leader del gruppo hanno giurato fedeltà al califfo, Abu Bakr al-Baghdadi, con una sequela di attentati kamikaze, in molti casi compiuti da donne, in tutto il paese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle altre notizie, iniziando dalla politica italiana, che mentre si divide su come reagire appunto all'attacco all'Europa, e lo avete sentito poco fa nel servizio del nostro Andrea Viali, si sta occupando dell'elezione del prossimo capo dello Stato. Se tutto dovesse andare come da indiscrezioni circolate nelle settimane scorse, Giorgio Napolitano dovrebbe presentare le dimissioni martedì prossimo. Il punto dunque con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. La data, Simone, potrebbe essere proprio quella. Il 13 gennaio, al termine ufficiale del semestre europeo a guida italiana, uno spartiacque al quale più di una volta ha fatto riferimento recentemente Giorgio Napolitano come punto di arrivo per il suo mandato. Giorno più, giorno meno, la corsa per il Quirinale sta dunque per scattare ufficialmente, anche se le forze politiche guardano a questo appuntamento da diverse settimane con evidenti ricadute sulla stessa attività parlamentare, che sta piano piano frenando in vista di questo importante appuntamento che nel suo iter ufficiale prenderà almeno un mese. Quanto al toto nomine, al netto di un eventuale accordo tra Berlusconi e Renzi nel patto del Nazareno, resta in primo piano la figura di Romano Prodi, rilanciata dall'ex segretario del PD Bersani. Attorno al professore potrebbe riunirsi allora una coalizione molto ampia, un'area di dissenso all'attuale esecutivo che va dalla minoranza Dem alla sinistra, di Sinistra, Ecologia e Libertà, fino a pezzi di Nuovo Centrodestra, UDC e Scelta Civica, arrivando potenzialmente ad includere anche diversi elementi del Movimento 5 Stelle. Da Via del Nazareno, dalle persone vicine però a Matteo Renzi, si mostra tranquillità, confidando in un'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che potrebbe arrivare già al quarto scrutinio. L'intesa con il Cavaliere ci sarebbe, la riprova sarebbe la disponibilità di Renzi nel concedere a Forza Italia la clausola di salvaguardia sulla nuova legge elettorale. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Tutto questo mentre ci si confronta con una situazione economica che vede ancora consumi al palo. Cresce il reddito, cresce il potere d'acquisto, ma non crescono i consumi. Nel terzo trimestre del 2014 ci sono piccoli segnali positivi per le famiglie italiane. Il reddito disponibile in valori correnti aumenta infatti dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, dell'1,4% su base annuale. E tutto questo, secondo l'Istituto di Statistica, grazie al bonus degli 80 euro. Bonus che però non è riuscito a far aumentare i consumi delle famiglie, che evidentemente vedono ancora nero. La spesa è infatti risultata invariata rispetto rispetto al trimestre precedente, in lieve aumento, più 0,4% su base annuale, mentre si torna a risparmiare, si raggiungono i livelli del 2009. In questo panorama è da registrare un aumento della pressione fiscale al 40,9%. I dati Istat, e qui le note più dolenti, riguardano anche il rapporto deficit-PIL, che raggiunge nel terzo trimestre il 3,5%, 0,2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un'altra notizia dall'estero, prima di andare a sentire cosa succede su strade e autostrade, e riguarda la sorte di Fidel Castro. Questa mattina sono tornate a diffondersi, bisogna dire che non è la prima volta, voci su una sua morte, e indiscrezioni che sono filtrate da una serie di giornali legati al dissenso cubano. Di certo si sa che per questo pomeriggio a L'Avana è convocata una conferenza stampa internazionale dove, se la notizia dovesse essere confermata, verrà data esattamente in quella sede, e naturalmente ne torneremo a parlare quando avremo conferma. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. A pochi chilometri da Parigi, l'assedio delle forze di polizia francesi ai presunti terroristi, ai sospetti di aver fatto la strage nella sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Avrebbero degli ostaggi, non si sa quanti, mentre spunta un collegamento con l'uomo che ha ucciso una vigilessa ieri nella capitale francese. Sono oltre 50 i foreign fighters passati per l'Italia, ma solo 4 italiani, dice Alfano, che aggiunge: valutiamo l'istituzione di una procura antiterrorismo. Secondo i servizi inglesi, negli ultimi 14 mesi si sono registrati 20 piani di attacchi contro l'Occidente. E sarebbero oltre 2.000 le vittime degli estremisti di Boko Haram in Nigeria, mentre i soldati si davano alla fuga, rasi al suolo interi villaggi. Torna ad affacciarsi voci di una morte di Fidel Castro, come vi dicevamo poco fa. La notizia è stata diffusa da organi di informazione del dissenso cubano, ma non ci sono conferme. Convocata a L'Avana una conferenza stampa internazionale. Saluto Marc Lazar, buongiorno professore. Buongiorno. È storico e sociologo francese della politica, è specialista della vita politica italiana e francese, insegna Sciences Po a Parigi ed è anche il presidente della School of Government della Luis Guido Carli. Con lei, professore, parliamo tra un attimo. Vorrei sapere innanzitutto, secondo lei, che impatto potrà avere quello che è avvenuto a Parigi sulla Francia, anche da un punto di vista politico, oltre che naturalmente come sta vivendo questi momenti, lei che di Parigi è, tra l'altro, e però proprio con Parigi ci colleghiamo e con Sergio Nava intanto per avere gli aggiornamenti sul blitz in corso. Sergio. Sì, buongiorno Simone. Gli ultimi aggiornamenti sono che, secondo quanto ha detto il Ministero dell'Interno, i negoziatori sul posto, specialisti di negoziati, diciamo così, delicati e difficili, stanno cercando di prendere contatto con i due fratelli Kouachi che si sono asserragliati all'interno di questa piccola tipografia da Martin-Anguel, che è questo piccolo villaggio a pochi chilometri da Roissy-Charles de Gaulle. Questo al momento è la situazione. Il primo ministro Manuel Valls è andato in visita alla redazione di Libération, dove da oggi lavora la parte di redazione sopravvissuta di Charlie Hebdo. Ha voluto incontrare i giornalisti che sono tornati al lavoro per mettere in stampa questo milione di copie che uscirà mercoledì, e uscendo ha detto, non rispondendo alla domanda se ci sia una nuova legislazione in preparazione contro il terrorismo, ha detto: non dobbiamo farci prendere ora dall'emozione, dobbiamo però porci delle domande su se la nostra legislazione sia adeguata. E un'ultima cosa che volevo dire riguarda invece il fatto che ci sono circa 300 bambini di una scuola materna ed elementare a soli 300 metri da questa tipografia dove è in corso l'assedio, che sono stati letteralmente rinchiusi. Le maestre stanno facendo loro vedere dei cartoni animati, che intorno c'è un dispiegamento di forze di polizia, c'è anche, tra virgolette, il dramma nel dramma. Non si sa quanti siano gli ostaggi, potrebbe essere uno o anche più di uno. Grazie Sergio Nava, con te torneremo a collegarci più tardi, sempre per gli aggiornamenti. E dunque siamo con Marc Lazar, si diceva, storico, sociologo francese della politica, presidente della School of Government della Luis Guido Carli. Professore, prima di tutto le chiedo una nota personale, cioè come ha vissuto questi momenti, come ha vissuto questo attacco al cuore della sua città e del suo paese. Ma come un enorme shock, un enorme trauma che veramente ha colpito tutti. Io ero all'università e subito l'informazione è stata diffusa, c'è stato un enorme momento di emozione, anche la necessità di avere protezione. Per esempio abbiamo il cosiddetto piano Vigipirate, un piano di sicurezza attraverso tutta la città, attraverso tutta la Francia, ma specificamente in Francia, e quindi lo vediamo ogni giorno quando si prende la metropolitana, la gente fa un po' attenzione, dobbiamo proteggere i nostri bambini e i nostri figli che vanno a scuola. Insomma, c'è un clima molto teso da una parte e d'altra parte c'è questa mobilizzazione all'inizio molto spontanea, non direi, come dicono i politici francesi attuali, di tutta la società francese, ma di una grande componente della società francese che è assolutamente rivoltata e che cerca di combattere. Guardi, lei faceva riferimento alla mia posizione di storico, mi fa pensare quello che voi avete conosciuto verso gli anni 78, per esempio, al momento del rapimento di Moro e della mobilitazione per strade della popolazione italiana. E qua mi porta, professore, proprio su una sua valutazione per la professione e il ruolo che lei svolge. Le ho chiesto che effetto le ha fatto da un punto di vista personale, le chiedo che effetto le ha fatto da un punto di vista di analista della società e della politica francese. Allora, guardi, la grande scoperta, se posso dire così, con questo terribile attentato è che ormai la libertà dei giornalisti, quindi la nostra libertà, è minacciata e questo sicuramente ha colpito tutti e colpisce la società e la politica francese, e questo è un elemento forte. L'altro elemento, e questo è un elemento sicuramente più grave, e il fatto che questa guerra, perché uso questa parola, questa guerra da piccoli gruppi, per il momento due o tre persone, però non è la prima volta che abbiamo avuto questo tipo di attentati, non è solo, come potrei dire, un'importazione dall'estero, è collegato a fratture interne della società francese. C'è una componente ultra minoritaria, però visibile, all'interno della nostra società che appoggia questi, si vede bene sui social network, su, non so come si dice in italiano, la rete sociale. Giusto, social network, usiamo anche noi. Social network, dite voi in italiano, si vede, c'è una componente maggioritaria che condanna, che dice bisogna non avere paura, dobbiamo mobilizzare, siamo un grande paese che della libertà, dei diritti umani, eccetera, quindi tra virgolette la grande grandeur française. E d'altra parte c'è una piccola minoranza che insomma sembra avere empatia, per non dire simpatia, e questa è la grande domanda per le settimane e i mesi futuri: come reagiranno questa parte della società francese minoritaria, ma che sappiamo dov'è, nelle periferie delle grandi città, sappiamo da dove viene, figli francesi, perché noi abbiamo il diritto del suolo, quindi sono cittadini francesi, sono di origine immigrata. Ancora, attento, una minoranza, non faccio come Libero che ha fatto questa copertina incredibile dicendo questo è l'Islam, non è questo, c'è una componente minoritaria che per diverse ragioni ha una forma di empatia, come negli anni 70 in Italia, e parlo agli ascoltatori più anziani, una piccola minoranza nella società italiana aveva una forma di simpatia per i brigatisti. Questo è un punto molto interessante. Io vorrei capire, professore, se lei si è dato una risposta, cioè lei ha detto la grande domanda delle prossime settimane sarà come reagirà questa minoranza, e ha provato a darsi delle risposte che naturalmente allo stato dei fatti possono essere solamente delle ipotesi. Ma non mi stupirebbe di vedere diverse provocazioni verbali, retoriche di questi, ancora una volta, piccoli gruppi di sostegno e forse altri attentati. Questo sicuramente non possiamo escludere, dobbiamo aspettare quello che succederà in questa zona attuale dove sono questi due terroristi con l'ostaggio, perché secondo le ultime informazioni hanno solo uno solo ostaggio. Se sono presi vivi, non è sicuro, cercheremo di capire se sono lupi solitari o sono legati al Qaeda, come hanno detto diverse volte, al Qaeda Yemen, dobbiamo ben capire questo, ma questo diciamo è una possibilità, cioè di nuovi atteggiamenti tipo violenti. D'altra parte c'è tutto l'effetto anche politico forte, perché come voi lo sapete domenica ci sarà una grande marcia per la Repubblica che dovrebbe sicuramente attraverso tutto il territorio nazionale, ma soprattutto nella capitale a Parigi, attraere centinaia di migliaia di gente che sicuramente dimostrerà questa voglia di difendere i valori della Repubblica francese. Dopo c'è tutto un gioco politico un po' complicato di cui è un po' difficile da parlare per il pubblico italiano. Allora, allora professore, io su questo vorrei naturalmente ritornare, ma prima abbiamo dei nuovi aggiornamenti, perché pare che ci sia stata un'altra sparatoria. Sergio Nava in diretta da Parigi. Sergio. Sì, ciao Simone, è una notizia di pochissimi istanti fa. Ci sarebbe stata una sparatoria a Port de Vincennes, che è nel 20° arrondissement a Parigi, una sparatoria davanti a un ipermercato, a quanto dato sapere. Ci sarebbe un ferito colpito da un colpo, da uno sparo, di più non si sa, è successo intorno all'una, alle 13. Di più, veramente al momento non si sa. C'è un'altra notizia, questa volta positiva: gli scolari, i piccoli bambini, i bambini che stanno delle scuole nel comune vicino all'aeroporto, dove si sono asserragliati due fratelli Kouachi, stanno per essere evacuati. Si tratta di diverse decine di bambini, sono arrivati gli autobus a prenderli, quindi quantomeno su questo fronte si sta schiarendo un po' la situazione, ma chiaramente la situazione resta tesissima. È stata confermata questa sparatoria, ricordiamo, alle 13, Port de Vincennes, 20° arrondissement a Parigi. Grazie intanto a Sergio Nava, con quale torneremo a collegarci più tardi. Naturalmente queste sono ore nelle quali, lo ricordiamo agli ascoltatori, ma lo sanno benissimo, ore nelle quali qualsiasi fatto di sangue avvenga nella zona di Parigi viene automaticamente ricollegato a quello che è successo ieri l'altro. Non è detto che sia collegato, può darsi anche invece che lo sia. Per chiudere con il professor Marc Lazar, lei teme che un atto di questo genere abbia, o teme o ritiene più che altro, per essere più neutri per così dire, che un atto di questo genere come quello avvenuto appunto ieri l'altro possa avere un impatto pesante in termini di spostamento di voti, per così dire, di consenso anche in Francia verso le formazioni dell'estrema destra? Non mi stupirebbe. Dobbiamo aspettare un po', perché avremo sondaggi tra 10 giorni più o meno. Non mi stupirebbe che Marine Le Pen sia la grande, approfitti molto di questa situazione, anche se il Presidente della Repubblica, che è in difficoltà in termini di popolarità, ha, tra virgolette, uso questa espressione, tra virgolette, giocato bene, e chiudo le virgolette, cioè ha avuto veramente un atteggiamento di grande responsabilità, è andato subito sul luogo del dramma, ha chiamato i francesi a unirsi, è riuscito a mettere i principali partiti dietro questa idea del raggruppamento nazionale per condannare questo terrorismo, quindi ha incarnato forse per la prima volta nella sua elezione il ruolo del capo dello Stato che nell'istituzione della Quinta Repubblica è decisivo di avere. Dopodiché, secondo me, sì, quella che può approfittare di questa situazione è sicuramente Marine Le Pen, anche perché è stata esclusa di questa marcia che si farà domenica, e che lei si presenta come una vittima e si presenta anche come una grande difensore. È stata una mossa stupida escluderla, professore? Secondo me sì. Secondo me c'è stato, questo è il mio parere, secondo me sì, perché bisognava non mettere in avanti i partiti, come hanno fatto appunto i diversi responsabili di partiti, ma sarebbe stato meglio di organizzare una marcia per la Repubblica convocando tutti i cittadini che vogliono partecipare. Adesso il Front National si presenta come la vittima del UMPS, come dicono, cioè dell'alleanza tra l'UMP di Nicolas Sarkozy e il Partito Socialista, d'altra parte, e si presenta come quello che vogliono, che gli altri partiti tradizionali vogliono escludere, mentre il Front National si presenta come il partito dell'autorità, dell'ordine, e il partito che cerca di organizzare una cosa assolutamente sicuramente è possibile organizzare un referendum per la pena di morte per questi tipi di terroristi. Come lo sapete, è stata cancellata la pena di morte nel 1981. Grazie, la ringrazio. Grazie al professor Marc Lazar, che è storico e sociologo francese della politica, presidente della School of Government della Louis Guido Carli e insegna storia e sociologia politica Science Po a Parigi. E noi torniamo a collegarci con Sergio Nava per aggiornamenti. Sergio. Sì, allora torniamo sulla notizia della sparatoria a Port-de-Vincennes. Port-de-Vincennes è nel 20° arrondissement a est del centro di Parigi, quindi più vicino al centro rispetto a Dammartin-en-Goële, dove si trovano asserragliati due fratelli Kouachi. Secondo le ultime informazioni, la sparatoria si sarebbe verificata di fronte a un negozio kosher, quindi a un negozio ebreo. Ci sarebbe un ferito e forse anche degli ostaggi. E altra notizia importante è che si sospetta che dietro a questa sparatoria ci sia la stessa persona che ieri a Montrouge ha ucciso la poliziotta nel corso di una precedente sparatoria, la stessa persona che conosce i fratelli Kouachi e che potrebbe far parte quindi della stessa cellula jihadista. Quindi in questo momento a Parigi la situazione è veramente grave, perché ci sono ben due crisi molto grosse. La prima con i fratelli Kouachi vicino all'aeroporto Charles de Gaulle, asserragliati, per il momento non si sa ancora molto. La seconda nell'est della città, all'interno della cerchia urbana, anche se sul confine, dove ci sarebbe questa sparatoria, questa presa d'ostaggi e anche un ferito. Per il momento è tutto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un'altra sparatoria a Parigi, come avete sentito in questi minuti. Ci sarebbe un sequestro di persone davanti a un negozio di alimentari kosher, e quindi naturalmente frequentato da persone di religione ebraica. Intanto, a pochi chilometri da Parigi, l'assedio delle forze di polizia francesi ai presunti terroristi, alle persone che avrebbero portato l'attacco al settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Sono oltre 50 i foreign fighters passati per l'Italia, ma solo 4 italiani, dice Alfano, che aggiunge: valutiamo l'istituzione di una procura antiterrorismo. E sarebbero oltre 2000 le vittime degli estremisti di Boko Haram in Nigeria, mentre i soldati si davano la fuga, sono stati rasi al suolo interi villaggi. Sarà il potere d'acquisto delle famiglie italiane, che però non comprano, cresce la propensione al risparmio. Alla borsa. Borse in diretta. E dopo i rialzi di ieri, giornata negativa oggi, -1,01% il FTSE MIB, -0,87% il FTSE All Share, Parigi giù dello 0,62%, Francoforte di mezzo punto percentuale, Londra dello 0,64%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai vanno giù i mercati? Beh sì, dopo la buona seduta di ieri le borse europee sono tutte deboli, in particolare Madrid e Milano, che guidano i ribassi a causa delle vendite sul settore bancario, che è sotto tiro per il riemergere di timori sull'adeguatezza patrimoniale. Secondo quanto ricostruito oggi dal Sole 24 Ore, Francoforte ha comunicato alle 15 banche italiane sottoposte alla sua vigilanza i rispettivi coefficienti patrimoniali minimi da rispettare, con soglie molto superiori ai requisiti previsti da Basilea 3. Alle banche sarebbe quindi necessari nuovi capitali, così in borsa cede tutto il settore. Unicredit, UBI e Mediobanca e Banco Popolare perdono oltre il 2%, fa meglio solo Intesa San Paolo, -0,7%, forti perdite sul Monte dei Paschi, che cede quasi il 5%. Grazie Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Come abbiamo raccontato, c'è stata una nuova sparatoria a Parigi e per il momento non ha nulla a che fare naturalmente con quello che sta succedendo a pochi chilometri dalla città, dove sono sotto assedio i due presunti autori della strage al settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Torniamo a collegarci con Sergio Nava, perché anche qua, anche su questa sparatoria, ci sono aggiornamenti. Sergio, eccoci. Sì Simone, la situazione è veramente grave in queste ore a Parigi, perché è un caso veramente nuovo e inedito. Ci sono ben due prese d'ostaggi, la prima la conosciamo, da Dammartin-en-Goële, dove i due fratelli Kouachi detengono almeno una persona, forse anche di più, all'interno di una piccola tipografia. Ma la notizia che vi stiamo raccontando ormai da circa mezz'ora, che c'è stata una sparatoria intorno alle 13 a Port-de-Vincennes, nell'est della città di Parigi, verso nel 20° arrondissement, verso il confine della città, ci sarebbero più ostaggi, tra loro diverse donne, e a quanto si sa la persona che ha preso in ostaggio appunto gli avventori di un locale kosher, di una IPSeri, cioè di una rivendita di spezie ebrea, sarebbe la stessa che ieri a Montrouge, nel sud di Parigi, ha ucciso una vigilessa, la stessa persona che conosceva i fratelli Kouachi e che probabilmente fa parte della stessa cellula jihadista. Quindi veramente una situazione incredibile qui a Parigi, due prese d'ostaggi, due assedi e più forze di polizia chiaramente dovunque nell'est parigino, sia a sud sia a nord vicino all'aeroporto Charles de Gaulle. Vi terremo ovviamente aggiornati. Grazie al nostro Sergio Nava, con quale naturalmente torneremo a collegarci. Abbiamo parlato molto di libertà di espressione quando abbiamo visto le notizie dell'attacco al settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Ebbene, c'è una storia che ci parla di libertà di espressione che arriva invece dall'Arabia Saudita, dove oggi un blogger liberale ha ricevuto le prime 50 delle 1000 frustate a lui destinate. Un caso denunciato da Amnesty International, e siamo in linea col portavoce Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International in Italia. Benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Di cosa si tratta? Di che caso si tratta? È la storia di Raif Badawi, che è un blogger saudita, fondatore di un sito chiamato Liberi Sauditi, che nelle sue intenzioni voleva semplicemente avviare un dibattito su temi politici, sociali, anche religiosi all'interno dell'Arabia Saudita. Per questo motivo nel settembre 2014 è stato condannato a 10 anni di carcere, a 1 milione di rial sauditi, circa 235.000 euro di multa, e quel che è peggio a 1000 frustate che questa mattina le zelanti autorità del regno hanno iniziato a somministrare, terminata la preghiera del venerdì al di fuori della moschea Al-Jafali di Jeddah. Secondo un testimone è durata 15 minuti questa assurda e crudele scena. Sì, le frustate sono 1000, quindi ogni venerdì, a meno che la condanna non venga ritirata, ogni venerdì ci saranno questi 15 minuti di supplizio pubblico dopo la preghiera alla moschea. Questa è la sostanza. Per 20 settimane. Esatto. Questo è quello che è una pena di morte a fuoco lento, perché evidentemente 50 frustate non si cicatrizzano nel giro di 7 giorni, e l'idea che per 19 settimane tutto questo accada di nuovo è semplicemente aberrante. Un'ultima domanda: esattamente quali sono le accuse che vengono mosse al blogger? Di aver criticato figure o istituzioni religiose, ad esempio la polizia religiosa, che è chiamata la Commissione per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, già nel titolo c'è quasi dell'autoironia, e in uno dei post su questo sito Badawi scriveva, si congratulava per quanto fossero zelanti i promotori della virtù e i repressori del vizio, diceva perché così ci insegnano cos'è la virtù e garantiscono che tutti quanti andiamo in paradiso. Grazie a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per il racconto di questa vicenda. Tra un attimo torneremo a collegarci con Sergio Nava da Parigi, perché ci sono ancora aggiornamenti sulla vicenda degli ostaggi in un negozio ebraico appunto di Parigi. Intanto però vi parliamo del cosiddetto TTIP, che è il trattato tra l'Europa e gli Stati Uniti, sul quale si sta lavorando in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Ebbene, finalmente Bruxelles ha reso pubblici gli atti. La partita è difficile, la posta in gioco è alta. Le proteste e i movimenti che le portano avanti si moltiplicano in Europa, meno negli Stati Uniti, forse perché in America sono convinti di avere molto più da guadagnare che da perdere, e poi perché la partita non è chiusa e dunque c'è spazio per trattare. I negoziati per l'accordo di libero scambio tra Bruxelles e Washington continuano, resi difficili dalla materia, che abbraccia la deregolamentazione di servizi, la circolazione delle merci, le barriere tariffarie e le regole sui farmaci, così come sull'ambiente, e complicati da interessi che spesso divergono da un lato all'altro del tavolo. Si lavora, ma nelle piazze europee si protesta, e non perché si vogliano conservare dazi e protezionismi, quanto perché ci si chiede come mai non si possa utilizzare la sede dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per appianare le differenze, evitando così di innervosire paesi come Cina, India, Brasile, che non resteranno a guardare se e quando l'accordo arriverà a conclusione. E poi, come spiega la professoressa Monica Monica Di Sisto, docente della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana e vicepresidente di Fairwatch, il trattato non si chiuderebbe con la firma. È un living agreement, cioè un accordo vivente, è un accordo che quindi procede e continua a lavorare sui capitoli di deregulation e liberalizzazione attraverso due organismi. Il primo è un consiglio per l'armonizzazione dei meccanismi di regolazione, dove tecnici e rappresentanti dei portatori di interesse, guardate bene, non dei parlamenti, degli eletti, non dei governi, potranno ogni anno segnalare una lista di priorità e discuterle in assoluta autonomia. E l'altro punto è che attraverso un meccanismo di arbitrato le imprese potrebbero contestare misure, leggi, normative che gli stati di lì in avanti potrebbero adottare. Anche gli studi su costi e benefici si moltiplicano. Riassumendo, in modo grossolano, resta che America e Europa si rafforzerebbero nei rispettivi settori più competitivi. Per l'Italia la partita si gioca sul Made in Italy alimentare. Dal canto suo la Commissione, per cercare di edulcorare la pillola, ha pubblicato i testi dei negoziati, materie divise per capitoli, che evidenziano i punti deboli e gli obiettivi già raggiunti dall'Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso torniamo a collegarci con Parigi per gli aggiornamenti sui due fronti, da una parte la nuova sparatoria della quale si è avuta notizia e dall'altra parte l'assedio ai presunti autori della strage nella redazione di Charlie Hebdo. Sergio Nava, eccoci di nuovo. Sì, ciao Simone, facciamo un attimo il punto della situazione, anche perché la situazione, appunto, come dicevamo in ultimo collegamento, appare veramente grave a questo punto a Parigi, perché i fronti non c'è più un solo fronte aperto, quello di Dammartin-Angueil, dove ci sono i due fratelli Kouachi, ormai asserragliati dalle 9 del mattino, siamo quasi a 5 ore di assedio, ma c'è anche un altro fronte alla Porte de Vincennes, nell'est della città, vicino, per chi conosce Parigi, a Place de la Nation, dove molto probabilmente si tratta della persona, del jihadista, a questo punto potremmo dire, che ieri ha ucciso una vigilessa a Montrouge, nel sud della città, che si è asserragliato all'interno di un ipercachet, è un epicerie, un negozio di spezie ebreo a quanto sembra, e con lui ci sarebbero diversi ostaggi, probabilmente anche diverse donne, almeno un ferito a quanto si sa in questa sparatoria, e chiaramente ci sono in questo momento due fronti molto gravi aperti, uno, ricordiamolo, vicino all'aeroporto Charles de Gaulle, a soli 5 km dall'aeroporto, ricordiamo persino gli aerei stanno deviando le rotte per non interferire, e uno in centro a Parigi, potremmo dire, nell'est, nell'estremo est del centro parigino. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I think it's going to be important for us to make sure that we recognize these kinds of attacks can happen anywhere in the world. And one of the things I'll be discussing with Secretary Kerry today is to make sure that we remain vigilant. Barack Obama ha preso ieri una pausa da questo suo viaggio intorno alla nazione, oggi a Knoxville in Tennessee, per parlare di education, per una riunione con i suoi esperti di sicurezza nazionale, con i suoi esperti di antiterrorismo, e non soltanto per capire se ci sono dei rischi di ricadute da questi attentati terribili, orrendi di Parigi, anche in qualche città, in qualche località americana, ma soprattutto per capire quali sono le ricadute strategiche di questo attentato, che ha molte componenti nuove dal punto di vista americano, o meglio, potrebbe averle. Intanto è molto diverso se è stato davvero ispirato da Al-Qaeda invece che dall'ISIS, è molto diverso se il cervello operativo era nello Yemen invece che in Francia, organizzato da, come abbiamo detto, lupi solitari. Sono analisi queste che sembrano fredde nel momento in cui siamo ancora nel dolore per questo orrendo crimine, ma sono importanti intanto per giocare d'anticipo su eventuali attacchi, ma soprattutto per capire quale sarà la strategia degli Stati Uniti e degli alleati per combattere questo pericolo del terrore insieme alla Francia, insieme all'Italia, insieme agli altri grandi paesi

che in questo momento si trovano invece a essere alleati a Dammartin Anguel con un altro ostaggio. Situazione estremamente delicata, estremamente complicata questa, anche perché i due fatti a questo punto sono collegati e quello che avverrà in uno dei due assedi necessariamente potrebbe influenzare in negativo anche l'altro. Quindi il livello in questo momento a Parigi, il livello di tensione evidentemente è massima, Sergio. A proposito di quest'ultima sparatoria, che cosa sappiamo di più? Poco di più, anche perché c'è la certezza, perché si è dichiarato che si tratta della stessa persona che ieri a Montrouge, nel sud di Parigi, ha ucciso, lo ricorderete, una giovane vigilessa, tra l'altro in tirocinio, di cui si erano poi perse le tracce. Si è saputo anche che sarebbe un uomo che aveva contatti con uno dei due fratelli Kouachi, un uomo già noto alle forze di polizia per fatti violenti, anche criminali, e di più non è dato sapere per il momento. Per il resto chiaramente tutto quanto è in evoluzione, è una situazione totalmente inedita qui a Parigi, la città è in stato chiaramente di assedio, perché a pochi chilometri di distanza tra l'aeroporto Roissy Charles de Gaulle e Port de Vincennes, che per chi conosce Parigi non è lontana da Place de la Nazione, nell'estremo est del centro della città, insomma ci sono ben due assedi in corso, situazione veramente drammatica. Allora grazie a Sergio Nava, così come a Laura Faggini in assistenza in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Noi ci ritroviamo tra un attimo naturalmente con GR24 e poi con uno speciale che appunto dedicheremo a quello che sta succedendo a Parigi.